Buonasera, benvenuti a tutti. Un saluto da tutto il team della biblioteca, in particolare anche dalla nostra direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che è qui presente per un momento, ma che è anche impegnata in altre riunioni. Ne approfitto brevemente per presentare gli ospiti che abbiamo questa sera. Siamo in compagnia di Francesca Witzmann, che condurrà questa conferenza che riguarda la fotografia con un approccio sull'arte, il pittorialismo in particolare, accompagnata da Pietro Marangoni e da Antonietta Orlandini, che ci introdurrà a questo evento. Un piccolissimo accenno a quelle che sono tutte le iniziative della biblioteca, in modo che possiate anche voi rimanere aggiornati. Ci troviamo solitamente il martedì o qualche volta anche il mercoledì. Ci troviamo già la prossima settimana il martedì, ossia l'8, e ci troviamo al Centro Trevi, dove la biblioteca presenterà il volume dedicato a Pierluigi Siena, il primo direttore del Museion, dove ci sarà la curatrice del volume insieme ad alcuni ospiti, tra cui Andrea Sackemeyer e Bertorelle. Ci troviamo poi ancora il martedì successivo, ossia il 15, con una presentazione del libro relativo a Luigi Negrelli, quindi pioniere della mobilità, delle infrastrutture. Sarà molto interessante vedere questa collaborazione insieme all'Associazione Storia Regione. Vi ricordo poi che mensilmente la biblioteca organizza anche dei gruppi di lettura che si rivolgono in particolare alla letteratura, alla narrativa, alla saggistica locale. Ogni volta viene scelto un volume e poi viene discusso in maniera anche molto informale e colloquiale durante i nostri appuntamenti. Vi ricordo di rimanere sempre aggiornati con le nostre iniziative. Abbiamo una newsletter alla quale potete iscrivervi e riceverete mensilmente tutte le nostre attività. Abbiamo un sito, canali social e niente, questo è tutto e lascio la parola ai nostri ospiti e buon ascolto a voi, grazie. Grazie. Ecco, buonasera a tutti e benvenuti. Si sente? Siamo a questo primo incontro che ho il piacere di presentarvi, la prima di una serie di conferenze dedicata all'arte a cura della sezione Azzurro Donna Bolzano e anche con l'associazione regionale. È un grande onore avere con noi stasera Francesca Witzmann, una fotografa di talento e ammirazione visiva e in più straordinaria, e il dottor Pietro Marangoni, anche lui giornalista e ricercatore di bellezza, si definisce in questo modo. Allora, poi io vi auguro una piacevole serata e dopo la fine della conferenza, se volete, siamo a disposizione per eventuali vostre domande. Grazie. Allora, buonasera. Grazie di essere venuti così numerosi. Sono particolarmente contento e ho accettato l'invito della dottoressa Orlandini di, non dico di condurre perché non mi piace, perché non sono capace di condurre niente, ma di dialogare, come si adesso è di gran moda dire, siamo in dialogo, no? E siamo in dialogo con Francesca Witzmann, che è grande fotografa di Bolzano e che è stato il motivo per cui sono qua. Quando ho visto il titolo della conferenza, dico benissimo, mi sono preparato. Io mi sono preparato. Allora voi mettetevi comodi, perché fino a domani sera non andate via, perché parlare della fotografia, dato che qui ci sono tantissimi esimi fotografi, parlare di fotografia, e avete visto a chi mi riferisco, parlare della fotografia dal pittorialismo ad oggi comporta almeno 24 ore, una maratona di 24 ore. Però ci sono i cappuccini domani mattina, vi mettete comodi, stanno allestendo le brandine di là. Però io so e interpreto la vostra volontà, no, non è possibile. E allora vi ho preparato 10 immagini che racconteranno una prima parte storica, perché dato che parliamo del pittorialismo ad oggi, il pittorialismo è uno dei momenti della storia della fotografia, non è l'inizio della storia della fotografia, e arriviamo poi, e a me interessa e a voi interessa a tutti, sentire Francesca Wittmann, che è questo il motivo perché non siete venuti, ditemi di no, o siete venuti per il pittorialismo? No, per il dottor Marangoni, ecco. Sono venuti. Allora, con me non ci sono mai incontri o conferenze didattiche, perché io odio la didattica nella cultura. La cultura è un'espressione dello spirito e quindi bisogna parlare di emozioni. E allora, tra ieri sera e stamattina, mi sono preparato le 10 chart e ho iniziato, e tengo subito una fotografia con questa, mi siedo perché così posso condurre meglio il computer. E nella fotografia, tanto per ricominciare, non esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno neppure guardare. Quindi la fotografia bisogna vederla, non guardarla. Questa non è una frase mia, ma è una frase di 184 anni fa di un grande fotografo di Parigi, anzi uno dei massimi fotografi dell'epoca. Ma la fotografia è nata, voi mi dovrete perdonare, io non sono uno storico della fotografia, io sono un divulgatore e mi occupo in questa fase della mia vita, che è la più bella fase della vita, di bellezza, perché quando si lavora non si può dedicare alla bellezza, perché bisogna accumulare un certo benessere per dopo, che adesso sempre meno, ma comunque è quello. A una certa età ci si può dedicare e bisogna dedicarsi alla bellezza, perché se no non lasciamo niente alle generazioni passate. Allora, vado alla prima immagine. Siamo nel 1861. Questa immagine sfocata. 1861, giusto per capire in che momento siamo a soli 6 anni dopo la morte di Andrea Sofer. Quindi avete già collocato la mente dove siamo, non siamo l'altro giorno. Siamo in un anno che nel mondo e in Europa è stato un anno tragico. Oggi parliamo tanto di cambiamenti climatici. Bene, quell'anno lì i nostri ambientalisti, dato che gli ambientalisti non si... Scusate, io sono un giornalista e quindi io le cose sono sempre stato abituato a dirle con nome e cognome, perché nella mia vita io ho fatto il giornalista e non il cameriere. È stato un anno tragico, freddissimo. Perché? Perché l'anno prima c'è stata la più grande eruzione mai avvenuta sulla Terra dall'età della pietra. Il vulcano Tambora in Indonesia è esploso e la nube, che è durata mesi, che è andata nel cielo, ha avvolto la Terra e per 2 anni non ci sono stati raccolti e c'è stato un freddo cane. Questo nel 1815, e quindi siamo arrivati al 17, che questo signore che vedete, che è vestito come all'epoca di Napoleone, quindi siamo in epoca non contemporanea, come ho detto prima, all'epoca praticamente di Andrea Sofer, Joseph Le Poussin Nice, quando era soldato francese, era con i francesi a Cagliari in Italia, si è inventato, dice: ma io vorrei fare qualche cosa per riprodurre le immagini, non con, come allora si usava, con la camera ottica, poi veniva riflesso e poi si andava con la matita a ricalcare l'immagine che veniva riflessa dalla camera ottica. Dice: no, io voglio fare qualcosa. E allora si è inventato, addirittura è andato a prendere del bitume e con il bitume ha spalmato, io chiedo scusa, ma ha spalmato una specie di lastra e ha tentato, quando è tornato a Parigi, di fare una prima, di fissare un'immagine, non era ancora la fotografia, non sapeva neppure cosa stava facendo. E dopo 20 ore di esposizione gli è venuta, da venuta dalla sua finestra, dopo 8 ore di, scusate, di posa, gli è venuta questa immagine sgranata. Questo è il primo scatto fotografico della storia della fotografia, è la veduta della finestra di casa tua. Ah, a proposito, mi sono fatto dei mini appunti perché alla mia età ormai la memoria va e va come queste immagini fotografiche. In quell'anno Horribilis, Mary Shelley a Ginevra ha scritto Frankenstein, quindi capite il momento tragico che c'è, viveva l'umanità, e questo signore si è pensato di qualcosa di bello da regalare a tutti noi, e quindi mi è particolarmente simpatico. Qui siamo 20 anni dopo. Questa invece è considerata la prima vera fotografia, anche se al tempo si chiamavano daguerreotipi, perché hanno preso il nome da questo signore qui, che era quello che si era studiato questo suo marchingegno. Lui era un esperto di diorama, di questi effetti speciali, di queste, un po' un teatro delle ombre era il diorama di allora. Però è riuscito a scattare anche lui questa che è considerata la prima vera fotografia, e infatti qui si vede qualcosa di più. Ed è stranamente è importante anche perché per questa figura qui, che casualmente è una persona, ed è quindi anche nello stesso tempo il primo ritratto della storia, fotografia e ritratto. Andiamo avanti. Questo è sempre di Daguerre, il primo, non dico il primo selfie, ma praticamente è il primo ritratto, è la prima figura umana che viene ritratta, e siamo un anno dopo. È lui stesso che è un po' scapigliato, ma è la bellezza proprio del ritratto, è quello che era lui, che non si aspettava neppure di essere questo. Intanto questo fenomeno della fotografia ha preso e ha contagiato tutti quanti, ma anche perché questi personaggi erano dei personaggi che erano persone tuttofare, ma soprattutto venivano dal mondo della scienza, perché erano, per poter preparare le lastre, erano chimici, erano medici, erano persone estrose che guardavano al futuro e a lasciare qualche cosa. Quindi li chiamavano artisti, ma artisti solo in conseguenza della loro attività. Arriviamo a una data molto importante, ed è quella che dà parte del titolo di questo incontro. Arriviamo al 1957. Quando gli esperimenti si sono ormai consolidati e Gustave Legret, questo bellissimo signore qui molto, che si vede che era il classico artista, dice ma qui a questo punto la fotografia deve diventare un'alternativa alla pittura, perché tutti quanti e tutte le famiglie si facevano ritrarre solennemente dai pittori dell'epoca, e attraverso l'uso di più lastre, questa è la fotografia considerata il suo capolavoro, questa è nella storia della fotografia come anche le altre immagini, ma è anche nella storia dell'arte, è la grande onda, ma sono due immagini diverse, sono una il cielo e l'altra il mare, che poi lui le ha messe assieme. In quell'epoca lì del pittorialismo, che molti poi dovevano ritoccare il prodotto finale perché le lastre tendevano sempre sull'azzurino, non erano fedeli e quindi le ritoccavano anche con degli acquerelli. Ed era una stampa molto particolare perché venivano usati bromiolo, queste composizioni chimiche estremamente complesse, per noi oggi inconcepibili, perché se un fotografo si dovesse lavorare in quella maniera lì non credo che riuscirebbe a fare un granché. E allora ecco che il paesaggio diventa uno degli elementi fondamentali nel pittorialismo. Poi anche si è andati sui gruppi, sui ritratti, sui gruppi di famiglia, ma sempre molto costruito. Tant'è che si davano più lastre. Addirittura Julia Cameron, una grande fotografa inglese di quell'epoca, aveva sovrapposto minimo 5 lastre, arrivando fino alla bellezza di 53 negativi per poter comporre un'unica fotografia. Quindi era un lavoro artigianale che, altro che selfie, tac tac, ne facciamo 100, lì si stava mesi per preparare una fotografia. E voglio ricordare i pittorialisti italiani più importanti, e sono tutti torinesi, tutti torinesi. E uno molto famoso, che poi è diventato anche un grande alpinista, è Guido Rey. È un nome che probabilmente quelli che hanno i capelli grigi se lo ricordano. E poi il grande Ercole Massaglia, che è stato uno dei fotografi italiani più importanti perché aveva lanciato la necessità della firma e del logo dello studio fotografico che producesse il prodotto, un po' come il Cartier dei gioielli. Se è firmato da quel personaggio, la fotografia ha valore, se non è, non è firmata, non ha valore. E in America c'era molto noto Stiglitz. Ma detto questo, mi voglio soffermare su un'altra immagine di Le Gray, che è questa. Questo è uno scatto che lui ha fatto e ha firmato, che anche lui aveva capito la necessità della firma e dell'autenticità. Questo Garibaldi a Palermo. E voi dite, ma cosa faceva un fotografo francese a Palermo in quegli anni? Perché Le Gray era un personaggio molto simpatico. Assieme al suo amico, oggi si può dire, all'epoca sua non si poteva dire che era il suo amico, hanno sentito di Garibaldi che andava a unificare l'Italia, questa impresa di Mille, sono partiti lui e Dumas, quello del famoso scrittore Montecristo e compagnia, e si sono portati, sono arrivati a Palermo contemporaneamente a Garibaldi per fotografare l'impresa di Garibaldi a Palermo. E questo è quando il generale era a Palermo, lui gli ha fatto il ritratto. E questo è uno dei primissimi ritratti della storia. Un altro personaggio molto noto di quegli anni, chiamati del pittorialismo, è l'autore di questa fotografia, questa bellissima bambina, la poveretta, la mendicante. Ed è una foto di Lewis Carroll. E chi è Lewis Carroll? Voi tutti, spero, abbiate letto, almeno quando eravate bambini, Alice nel Paese delle Meraviglie. E probabilmente questa era una delle Alici che lui aveva incontrato in epoca vittoriana. Ma torniamo adesso sul pittorialismo. Ho detto, siete disponibili? Ci mettiamo poi di là e vi racconto più avanti, però credo di no. E torniamo a quello della frase principale, quella della frase introduttiva. Questo è Nadar. Questo è il genio, uno dei geni della fotografia francese dell'Ottocento. Questo aveva studiato medicina, era anche un giornalista, era un pittore, era un astronauta, e tant'è che lui era appassionato di voli, che è stato il primo autore delle fotografie aeree. ma come la faceva la fotografia aerea se gli aerei non c'erano? Perché andava in mongolfiera e la sua grande passione si è fatto l'autoritratto in mongolfiera. Se poi qualcuno fosse interessato e mi chiede qualcosa sulla fotografia aerea, e sarei contento di venire qui a raccontarla, ma è la prima volta che io sono ospite qui, pure vedo qualche anno, vi potrei raccontare di chi ha fotografato per primo le piramidi del Cairo, la valle del Nilo e tutte queste imprese straordinarie, che era un fotografo di casa nostra che pochi conoscono. Ma non ve lo racconto adesso, se lo volete venite al circolo la stanza o qui se mi invitano. Che ha fatto delle immagini che l'Università di Milano, a cui ho collaborato a quel lavoro assieme a Laura Piovesan, è stato un grande, bellissimo lavoro. Adesso mi dovete consentire una mia debolezza. Andiamo ad un grande di Nadar, voglio dire, era il fotografo che ha fotografato a Parigi nel suo studio Baudelaire, Degas, Manet, tutti i grandi personaggi, anche Rossini nostro si è fatto fare le fotografie, e anche una donna italiana, la Divina Contessa. Che è questa, che è la Contessa di Castiglione, che ormai nelle scuole non si impara più, è stata l'artefice, ed è una donna e quindi sono contento che sia una donna, ma è stata l'artefice dell'Unità d'Italia, a che ne dica il suo, come posso definirlo, il suo, oggi sì, una brutta parola diventerebbe, allora non la dico, che era Cavour, che era il conte di Cavour. Questa, vi annoio? Vi annoio? No. Se vi annoio, questa Contessa di Castiglione, fotografata non da Nada, ma da Pierson, perché è andata da quest'altro fotografo. Questo le ha scattato 400 scatti, Pierson, nell'arco di diversi anni. Ma è interessante il rapporto che lei ha avuto con questo fotografo, perché era un fotografo non come Francesca Witzmann. Perché mentre Francesca Witzmann è una fotografa che riesce a fare la foto come la vuole lei, perché diciamo, i grandi fotografi sono loro che decidono la foto, Pierson era uno spirito così remissivo, un po' un po' come era Venere in pelliccia, era il Serafin della Venere in pelliccia, era quello che si faceva comandare dalla Divina Contessa Virginia Oldini di Castiglione, è in Castiglione, e lei gli imponeva le fotografie come dovevano essere, quindi era lei la fotografa e lei che creava le fotografie. E vabbè, di Francesco Oldini anche di questo vi lascio la curiosità, la prossima volta ve lo racconto. Però adesso, dato che di questo personaggio, che è un personaggio incredibile e straordinario, perché oggi sarebbe uno dei personaggi più noti della contemporaneità, se ci fossero le televisioni, i selfie e i mezzi di comunicazione di oggi, personalità di grande spessore, vi faccio vedere questo ha causato anche una crisi con Napoleone III, col re, era odiata e amata da tutti. Questa è stata l'amante anche di Rothschild e grazie a lei non solo è stata fatta l'Italia, ma è stata fatta la fortuna anche di gran parte del capitale dei Rothschild, ma di tutto questo un'altra volta. Però vi faccio vedere due immagini che oggigiorno non dicono niente, ma sarebbe, ma cicciolina, niente rispetto alla Divina Contessa, che erano queste due immagini qui. I piedi, perché allora nella fotografia non si potevano esporre queste cose e lei ha avuto il coraggio 160 anni fa di farsi fotografare i piedi. Voi dite, ma poveretta. E beh, è stata una grande innovatrice in tutto e quindi è stata una grande innovatrice anche nella fotografia. E pensare che non aveva delle bellissime gambe con i modelli di oggi. Chiudo questa chiacchierata, mia rapida di introduzione alle fotografie di Francesca, con una delle più belle fotografie della storia della fotografia, in cui c'è il senso del ritratto, che il ritratto non è la fotografia dell'esteriorità, ma il ritratto, quello vero, è il ritratto dell'anima. Questa è sempre la nostra Contessa di Castiglione. Questa è una foto del 60, 1860, quando non era neanche più tanto giovane. E che dire di una fotografia così? Bellissima. Quanti fotografi oggi sono in grado di fare una fotografia così e essere riconoscibili per quella che è? Comunque, poi di grandi ritrattisti, perché sto parlando di ritrattisti perché Francesca Wittmann è una ritrattista. Grazie. Occorre ricordarli, perché sono i fotografi che sono in sala, dicono, ma Maragoli ci sta raccontando storielle. Sì, è vero, però bisogna ricordare Man Ray, che come ritratti ha aperto le vie alla modernità, ma già questa è una fotografia estremamente moderna. L'americano Richard Avedon, quello che ha ritratto anche, che è diventato famosissimo in Italia perché aveva fotografato la Susanna Agnelli, no, la Susanna Agnelli, la Marella Agnelli. Sì. Il tedesco, perché è il tedesco di Berlino, Helmut Newton, che ha dato un'interpretazione diversa al ritratto in una maniera più provocatoria, fino a un altro grande creatore di ritratti, ma creatore perché li voleva lui e li creava distorcendo certe volte la vera personalità dell'uomo, che è Irving Penn, che una volta all'epoca dell'assessore Ferretti qui è stata fatta una mostra di fotografie di Irving Penn. Con questo io vi ho già annoiato, però adesso, dato che ho il microfono, prima di cederlo a Francesca, è inutile che vi presento chi è Francesca Wittmann. Francesca Wittmann, a Bolzano, dopo Joe Alberti e prima di fotografi che ci sono in sala oggi, è stata la fotografa, perché oltre ai Kunstmaler di inizio secolo scorso a Bolzano, diciamocela senza faccia modesta, e già che c'è e che è qui e voi siete venuti per lei, se mi permettete faccio prima un po', interpreto i vostri, perché vi leggo nel pensiero, perché ho questa capacità, vi leggo nel pensiero, ma però sono anche domande mie, pur conoscendoci da tanti anni. Vi devo dire, confessare anche una cosa, dato che oggigiorno tutti fanno outing, faccio outing anch'io. Grazie a Francesca e alle sue fotografie, qualche anno fa, diciamo così, abbiamo realizzato al giornale Alto Adige, per il quale lavoravo e lavoro ancora, dei servizi fotografici dove abbiamo fatto i ritratti dei grandi personaggi del Sud Tirolo, dell'Alto Adige di allora, con le sue fotografie, dove aveva interpretato l'anima dei personaggi, perché è lì il problema. Uno mi fa un ritratto, sono lì, no, devo capire chi sei. Che abbiamo fatto, e la ringrazio ancora oggi, perché è stato uno dei successi più grandi dell'epoca del molto giornale. Molto seguito. Allora, gentile signora Francesca, comincio. Ecco. Buonasera, grazie della vostra presenza. Scusi, già ho fatto un errore, io faccio sempre errori. Allora, diciamo che la passione fotografica, brevissimamente, faccio un excursus. I miei nonni erano all'epoca a Riva del Garda, hotel di Lucky di Park. All'epoca si usava, negli alberghi di un certo livello, offrire la Dunkelkammer, cioè la camera oscura per i fotografi, e l'atelier per i pittori. E quindi diciamo che è un po' una passione che mi arriva dalla famiglia, la fotografia. E per questo mi sono anche occupata dei Kunstmaler Fotograf, perché all'epoca era così. Bene. Posso, brevemente, la donna più fotografata al mondo, secondo voi, chi è? Marilyn Monroe. No, la regina Elisabetta d'Inghilterra. La regina Elisabetta d'Inghilterra, la più fotografata al mondo. Adesso passo il microfono a... Ce l'ho già. E rispondo alle sue domande. Allora, ho preparato. Ho detto, vi leggo i vostri pensieri. Qual è stato il primo personaggio che Francesca Mitzmann ha fotografato? Mio Dio, allora, il primo personaggio che ho fotografato, avrò avuto 16 anni, è stata Maria Beatrice di Savoia. Ovviamente foto super sfocata, imperfetta, e ricordo che sono andata da Foto Alberti, poi per far stampare queste foto, e ho detto, ma che cosa faccio? Mi ha detto, guarda, non le straccio perché sono le prime, però impara a mettere a fuoco, impara a inquadrare, impara. Quindi prima fotografia completamente sbagliata, alla Villa Bosco Verde di Bolzano questa foto. E allora, se però è partita subito con un personaggio di un certo livello, non è che è venuta a fotografare bene. È nota come la fotografa del presidente Pertini, questa ha giocato un grande ruolo, ma il suo ritratto più celebre, qual è stato? Ah, poi c'è la chiavetta sua, Sì, vuole mostrarla? Certo, come facciamo adesso? Perché se no, scusate, Francesca. Intanto vi dico un altro errore clamoroso che ho fatto. Ho fotografato Claudia Cardinale e l'allora marito a Roma nella loro casa, e io ero molto molto emozionata perché insomma Claudia Cardinale era una delle dive più importanti al mondo, con tutti i musicisti attorno. E una, all'epoca, non so, qui voi siete giovani, non ve lo ricordate, si usava il paraluce, e io non l'ho, ecco, grazie che lo so. E io non l'ho piegato, l'ho lasciato normale. Tutte, ripeto, tutte, non, neanche una se ne è salvata, tutte con questo alone. Allora il direttore di oggi mi stretta, mi chiama e mi dice, ma diciamo, cosa è successo qui? Io, non sapendo come salvarmi, tu sa, ho voluto imitare Stiglitz, perché Stiglitz faceva le... Fortunatamente avevo frequentato un corso a Venezia di fotografia, avevo imparato anche questo, e naturalmente il dottor Mistretta ha detto, Francesca, tu non hai imitato Stiglitz, hai semplicemente sbagliato, per questa volta va bene, ti assumiamo, punto e basta. Quindi di errori ne ho fatti tantissimi. Ecco, qui adesso stanno correndo un po' di immagini, sia di ritratti, ecco come questo Fabrizio De André, un mito veramente. E com'era il rapporto quando Francesca Witzmann si incontrava con questi personaggi? Allora, scappavano? La mia prima regola era molto molto semplice: solo del lei, mai dato del tu a nessuno, neanche a un bambino di 5 anni, mai dato del tu, solo il lei. E ovviamente chiedevo due volte, perché l'ordine era di chiedere due volte. Se il personaggio diceva di no per due volte, non lo si fotografava. Doveva subito, non dico subito dire, ma comunque bisognava rispettare la privacy. Questo è Indro Montanelli e questi sono Louis Strenker e questo è un pizzaiolo famoso. Con Louis Strenker com'era il rapporto? Con Louis Strenker? Louis Strenker per un anno, veramente un anno, io avevo il compito di telefonare tutti i lunedì, anche quello di Pasqua, alle ore 20, per dire per favore a tempo, non a tempo. Ogni volta era no, prossima settimana, next week, va bene. Dopo un anno esatto ha detto sì e mi ha detto venga domani mattina alle 11 per pochissimi minuti. Abitava in via Fago, Trenker, vicino alla casa di riposo. E io sono andata ovviamente convinta di stare pochi minuti, sono rimasta fino al pomeriggio alle 5 e da quel momento l'ho sempre fotografato. Mi ha fatto un interrogatorio di ottavo grado ovviamente, quindi però per un anno non ho mai, ma nemmeno nelle festività natalizie potevo permettermi di non chiamarlo, si vede che voleva vedere se io ero proprio intenzionata a fotografarlo. Istantanee, tante istantanee durante i momenti, concerti e così, però anche ritratti e foto. Questo è stato esposto al Salvador Dalí Museum di Berlino, la Pupella Maggio che ha interpretato questa maschera napoletana. Questa è Giuliana Dessio che sarà a teatro prossimamente a Bolzano, fotografata nel Parco Ducale. E questo è Travalini che ha anche interpretato una maschera. Questa è Valentina Cortese, una persona favolosa, anche fotografata in Valbadia. Questa è Mandalir. Questo è non Cocciante, non me lo ricordo, come si chiama? Patiato. È vero. Questo dovrebbe essere Miguel Bosé. Bennato. Non è Miguel Bosé, sì, per quello di prima. Bennato prima. Questo è Domenico Modugno. Questo è quel famosissimo cantante americano Springsteen. E questo c'è per Fabrizio De Adè con la moglie, fotografati in via Dalmazia alla pizzeria che c'è all'inizio della via Dalmazia. Perché una volta questo Franco Battiato, una volta dopo lo spettacolo si andava sempre a cena in quella pizzeria perché chiudeva tardi. Questo è Bennato Loredana Bertè, Edoardo Bennato. Come deve essere un ritratto fatto bene secondo? Ma secondo me il ritratto fatto bene, però solo secondo me si debbono vedere se possibile. Oh mio Dio, che emozione! Questo è Giorgio Moroder con la moglie, con la Francesca che è andata in cielo da poco. Questo è Gaber. Il ritratto deve trasmettere la persona. Tu guardi questo ritratto, devi capire chi è, non solo dire si chiama Lucio Dalla, ma anche avere un po', sapere un po' qualcosa di lui. Devi cercare di, soprattutto gli occhi devono essere, e anche se loro continuano a mettersi gli occhiali come sempre, perché non vogliono far vedere gli occhiaie, se non hanno passato lo stile. Questa è Milva in Piazza delle Erbe, questo è Nino Ferrer. Questa, non me la ricordo, questa è l'Ornella Vanoni con la Patti Pravo, disponibilissime fotograficamente parlando, molto molto disponibili. Questo è Peter Tosh, questo è quello di Bologna, non me lo sfugge il nome al momento. Questo è il famoso Pino Daniele, Arbore. Quel cantante era quello sulla sedia a rotelle, come si chiama? Bertoli. Questo è Arbore, questo è Tullio d'Episcopo, famosissimo batterista. Vedo che c'è la maggioranza, sono scatti in bianco e nero. Ma perché questo è Tony Esposito? In bianco e nero perché all'epoca era molto richiesto il bianco e nero, poi lei, questo è Ray Charles, perché io all'inizio davo le fotografie ai quotidiani e il quotidiano esigeva il bianco e nero. Alberti, che era il mio maestro, voleva sempre il bianco e nero, questo Dario Argento, questo... Ecco, questo è un errore gravissimo. Era Ferragosto, ero a Merano e l'onorevole Andreotti mi ha detto si può venire domani alle 12 a fotografarmi nel parco del Palace. Io sono andata, ho fatto tutte le fotografie eccetera eccetera, poi sono tornata a Bolzano e una mia amica mi telefona e dice sai vieni a fotografare tu questa sera che sono a Bolzano, io dico sono stanchissima, ma no dai vieni fai qualche foto e io purtroppo dall'emozione, voi siete troppo giovani non lo sapete ma all'epoca c'erano i rullini. E se il rullino non rientrava completamente il fotografo, già sorride, sembrava non usato, nuovo. Io ho rimesso il rullino dell'onorevole Andreotti al concerto dei Pooh, per cui alla fine avevo i Pooh sopra Andreotti. E Paola, ecco, cara Presidente, così è stato, io mi sono emozionata. No? Lei se lo ricorda che bisognava stare attentissima, era facilissimo fare questo errore. Era facilissimo. Qual è è stato il personaggio o la fotografia che le hanno dato maggiore soddisfazione? No, il Presidente Pertini, ovviamente. Infatti sono passate un paio di immagini, quella con il raggio di luce mentre sta giocando a carte, molto caravaggesca. Sì. Ma lui era elegantissimo perché curava il pullover con i calzettoni, con le stringhe delle pendule, era perfetto, cioè non si poteva dire, non dovevi dire nulla, era semplicemente perfetto in montagna. E un'altra perfetta, super perfetta in montagna è la Ursula Andres e Fabio Testi, perché essere perfetti sulla neve per essere fotografati, vi garantisco, vero Favaretto, che non è per niente facile, perché le ombre e le luci gli vanno da tutte le parti e loro erano perfetti. Prima di lasciarvi adesso alle domande a Francesca, un'ultima mia. Sì. Quale personaggio manca nella collezione? Ah, me ne mancano più di uno, Madre Teresa di Calcutta e l'imperatrice d'Austria, zitta. Tutte e due erano arrivata e loro hanno preferito andare in cielo prima. Grazie. Grazie Francesca, adesso sentiamo, prego, che domande le avete senz'altro da fare. No, questo magari, no? Vediamo. Vieni. Allora, non occorre, non credo che occorra. No? Ecco, io volevo più che fare una domanda, fare un ringraziamento a nome del Circolo Cittadino per quello che ha dato... No, non occorre, che ha dato alla nostra associazione Francesca Wiesmann. Io ricordo come se fosse ieri, sono passati esattamente 40 anni, l'arrivo del presidente Sandro Pertini al Circolo Cittadino, che allora era in via della mostra, e tutto organizzato ad hoc dalla Francesca, che aveva fatto delle bellissime fotografie e che gli ha dedicato una mostra. Ecco, io non so come è successo quella volta, io so che nessuno aveva detto niente. Ma era top secret la visita, infatti. Pertini a Bolzano, sì. Che è stata la prima ed unica volta che è venuto a Bolzano. Era segretissima. A un certo punto io esco perché ero vicepresidente, quindi il presidente mancava, ho dovuto fare gli onori di casa. Era la via della mostra strapiena di gente, addirittura gente che piangeva. Che piangeva Sandro. E poi è salito dietro, ha visto le fotografie che gli aveva dedicato la Francesca e dico quello è stato un momento magico anche per la carriera di Francesca, sì, esatto, perché esatto. È stato veramente l'episodio che l'ha mandata in onda nazionale e poi anche internazionale. Quindi Ti ringrazio, Francesco. No, grazie a voi, perché la mostra l'hanno pagata loro. Io non ho speso niente, scusa, è la verità. È la verità, sono stati gentilissimi, hanno pagato tutto. Altre domande? Volevo chiedere a Francesca qual è stato il personaggio più difficile da fotografare, perché magari un po' indisponibile. Più difficile? Rossano Brazzi. Rossano Brazzi, perché sosteneva di essere fotogenico solo dalla parte destra, e quindi abbiamo fatto all'hotel Emma di Merano, dove era con la moglie, non so quante fotografie le ha esaminate, controllate, e poi mi ha detto vanno benissimo, può mandarle a oggi, che era il settimanale con il quale collaboravo, ma veramente difficile, più difficile di qualsiasi gentile signora. Comunque mi permetto di dire che questi personaggi, io sono molto grata, anche perché si preparavano, cioè quando io dicevo facciamo le foto, non so, al parco o sulla neve, loro arrivavano perfettamente in ordine, truccati, benissimo, non sono mai arrivati in disordine, avevano sempre un rispetto della fotografia enorme, per cui diciamo che il personaggio era di grande aiuto quando lo fotografavi. Soprattutto gli attori, quasi se la facevano loro la fotografia, perché ti dicevano quella luce lì. Io ho imparato tantissimo fotografando gli attori di teatro, perché ogni minima luce dava un altro senso di profondità e di bellezza. Beh, poi lei lo sa, signor Favaretto, quindi grande fotografo. Bene. Passo il microfono a lei. C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra domanda? Va bene, se non c'è altro, abbiamo fatto quasi un'ora, abbiamo fatto quasi le sei, direi che possiamo avviarci alla conclusione. Dicendo cosa? Che un'ultima cosa voglio chiedere ancora a Francesco, e dato che ci sono anche degli esimi fotografi, e quindi è una provocazione anche nei loro confronti, ma nell'epoca dei telefonini la fotografia, il ritratto, il pittorialismo è ancora possibile con questo strumento? Sì, la fotografia resta sempre la fotografia, perché lei può dare a me una scatola di matite colorate e tutto quello che vuole, ma io non farò mai un disegno di Giotto o di Plathener o di che so io. La fotografia ha le sue regole, i suoi rispetti. Una buona fotografia non la puoi fare così a caso. Io ho un'amica fotografa che mi racconta delle cose pazzesche, arrivano delle mamme che dicono mi stampi per favore tutte queste, buttano là il telefonino come se fosse uno straccio, manca mezzo piede, manca mezza faccia, manca mezza mano. Dice, ma signora, ma il suo bambino non puoi neanche dire, perché a volte può capitare che magari sia veramente senza una mano, perciò bisogna stare molto molto attenti. Ma cosa vuole che sia lì e la aggiunga lei, no? Una addirittura ha detto, ma sì, ma è vero, voleva raccontare a Cristina Alberti, è impazzia, vedi delle foto da piangere, eppure ho detto, ma cosa dicono loro di queste foto? Ah, ma sono tutte contente, perciò, però una buona fotografia rimane una buona fotografia, infatti se voi vedete nei servizi giornalistici, i fotografi hanno fior fior di macchine fotografiche, il telefonino serve perché metta che scivoli il Papa in quel momento e non puoi fotografare, perché poi la cosa strana è che se tu fotografi una persona o un evento che non può essere fotografato, se tu hai una macchina fotografica sei punibile, se la fai col telefonino no, questo non l'ho mai capito. Infatti. Non lo so, non l'ho capito veramente, però è così, la legge è così. Quindi il telefonino serve perché, non so, vediamo Favaretto passare con la Carolina di Monaco, il tac. Serve per un'istantanea, così, però bisogna saper usare il telefonino, perché non è così facile come sembra. E poi il famoso discorso del cancellare non va bene, tu non devi cancellare. Infatti uno dei miei insegnanti, Giorgio Lotti, anche Rolli Marti, dicevano puoi fare 100 fotografie, devono essere perfette, una meravigliosa, ma non che le altre 99 debbano essere brutte. Di partire con la mentalità che tutte sono buone, però una supera tutte. Adesso si possono fare fotografie in bianco e nero e fotografie a colori. Sì. Contemporaneamente. Sì. Qual è la differenza tra le due tecniche, diciamo? A livello tecnico o a livello emotivo? No, a livello emotivo. A livello emotivo? Sì. Ma allora, sono diversi? A livello emotivo, naturalmente per la mamma è molto più bello vedere il bimbo a colori. No, io parlo di fotografia. Ma anche in generale, se a colori ti dà gioia, felicità. Il bianco-nero, secondo me, ti devi un attimo soffermare ad osservarlo, perché è un po' più difficile se è fatto molto molto bene. Guardando la fotografia da sinistra lentamente a destra, come nei quadri, puoi trovare tante cose. E però adesso devi amare il bianco nero, se no a livello di impatto così è chiaro il colore è più. Grazie. Grazie. Bene, grazie. Prego. Altre domande? Curiosità? Nessuno è curioso di conoscere. Allora, se non ci sono domande, noi abbiamo finito la conferenza e vi ringraziamo tutti. Grazie. Una buona serata a tutti. Grazie della vostra presenza, grazie.